Essere e benessere di Nicoletta Carbone. State sgranocchiando? Oh, cosa avete sgranocchiato? Sono le 11:07. Potete dirmelo chiamando il nostro numero verde 800 24 0024, oppure potete scrivermi al 349 238 6666, se state sgranocchiando due mandorle, mangiando un biscotto, uno yogurt, una mela, un cracker, un grissino, un panino, una brioche. Potete come sempre seguirci anche su Facebook e su Twitter. In linea con noi il dottor Ongaro, è tornato a trovarci. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta. Pensavo vi foste distratti e vi foste messi a mangiare così, non capivo l'inizio. Dimmi cosa sgranocchi e quando sgranocchi? Mattino, pomeriggio, sera davanti alla TV, notte, e ti dirò, dottor Ongaro, e ti dirò anche chi sei, ma anche quanto sano potrai essere. Diciamo che ce n'è per tutti i gusti, c'è chi mangia i cracker, la frutta, oppure le caramelle, i chewing gum, le merendine. Insomma, lo sgranocchiare è veramente un po' una catena di tornasole, si capisce molto dello stile alimentare di una persona anche da che cosa sceglie di utilizzare come snack durante la giornata. Certo, perché lei, dottor Ongaro, che cosa ci suggerirebbe? Mele, ma io suggerisco gambi di sedano, ormai carote. Come è noto, tendo a suggerire che sia comunque qualcosa di più naturale possibile. Potrebbe essere anche, che ne so, la centrifuga o il frullato o tante altre cose sfiziose, però l'ingrediente di partenza, insomma, più semplice e genuino è, sicuramente meglio è. Insomma, non è detto che debba essere sempre negativo lo spuntino, però, anzi. No. Ma noi parliamo di spuntini e di sgranocchiamenti, che sono due cose un po' diverse, dottor Ongaro. Beh sì, perché diciamo che la differenza è anche, come sempre, il grado di consapevolezza. Insomma, lo spuntino è qualcosa di più o meno programmato e ha, secondo me, una funzione importante in realtà nel corso della giornata, perché permette di interrompere la fame, di tenere stabili i livelli di glicemia e di evitare di arrivare ai pasti principali così affamati da rischiare di abbuffarsi. Lo sgranocchiare forse è qualcosa di un pochino meno consapevole, cioè è un po' più frutto di una situazione emotiva in cui si va alla ricerca della prima cosa che capita, magari, insomma, su quello, ecco, bisogna stare un pochino più attenti e forse concentrarsi ancora di più sulla scelta del cosa, insomma. Anche perché spesso non ce ne rendiamo conto, una caramella tira l'altra, poi magari prendiamo un biscottino, poi ci alziamo, andiamo a prendere un caffè. Si mangia per tante ragioni, per un po' per tirarci su, perché magari ci sentiamo con l'energia un po' bassa, si mangia anche per noia, si mangia anche per gratificarsi soprattutto. 800 24 00 24, sono le 11:10, pensate da stamattina, da quando vi siete alzati, che cosa avete mangiato oltre la colazione, se la colazione l'avete fatta, e poi provate a pensare alla vostra giornata. C'è un momento della vostra giornata in cui fate più spesso ricorso a spuntini, oppure avete il piacere, quasi la necessità, o forse ancora non ve ne accorgete quasi, di mangiare il chewing gum, la caramella e masticare qualcosa, spesso anche per tenere la bocca occupata. Se non riuscite a trattenervi, potrebbe esserci un rimedio. Se non si vuole ingrassare o si vuole evitare di abbuffarsi con spuntini, bisognerebbe mangiare con l'altra mano, quella che non si usa mai. È la conclusione a cui è arrivato il dottor David Neal, professore di psicologia dell'Università della California del Sud. Il risultato della ricerca ha dimostrato che se anche le risposte agli stimoli degli snack sono diverse da persona a persona, così come la forza di volontà, è probabile che il cambiare mano fornisca un input diverso al cervello che non riesce a mettere in atto gli stessi abituali meccanismi. Dottor Ongaro, certo che se si abitua anche con l'altra mano siamo fritti. Ah, no. Sì, È una ricerca interessante, devo dire che sono due le cose che possono accadere: o uno rischia di morire di fame perché è completamente incapace di mangiare con l'altra mano, questo sarebbe il caso, oppure c'è da aspettarsi che nel tempo uno si abitui, si alleni e a quel punto la differenza non c'è più, insomma, quindi non lo so quanto sia un metodo alla lunga valido. No, perché l'abbiamo riportato un po' per così sorridere, anche per chiedere a lei, dato che comunque se abbiamo fame, anche se siamo mancini, insomma, usiamo l'altra mano, che cosa possiamo fare per portare alla bocca degli spuntini intelligenti che ci gratifichino? La carotina non la vogliamo, perché non ci piace granché, non ci piace sgranocchiare la carota o il sedano. Ci dia qualcosa per avere soddisfazione e nello stesso tempo per evitare quei picchi glicemici di cui lei ci ha parlato e che sono così dannosi per la nostra salute. Ma secondo me una delle cose più utili in queste situazioni rimangono i cereali, che ovviamente noi privilegiamo sempre nella loro versione integrale, però sono comunque un concentrato di energia, permettono di fare una sorta di ricarica, però non danno questi sbalzi glicemici così alti, quindi anche semplicemente il pane nella versione integrale va molto bene, ci si può spalmare sopra. Per esempio, una cosa che è ancora usata poco in Italia ma che è molto buona, che è l'avocado, che ha anche una buona concentrazione di acidi grassi monoinsaturi simili all'olio d'oliva, quindi è calorico, dà energia ma non ha grassi cattivi. Oppure, Nicoletta, una cosa che purtroppo rimane assolutamente fondamentale, anche se può apparire poco sfiziosa, ma in realtà non lo è, perché poi quando la provano tutti, anche i bambini, se ne innamorano, che è la frutta, scegliendo la frutta di stagione, che è sì ricca di zuccheri, ma sono zuccheri mescolati a fibra che contengono vitamine, antiossidanti, eccetera, e quindi rimane comunque uno snack leggero, molto veloce e anche facile da trasportare, insomma. Meglio con la buccia la frutta? Beh, sicuramente meglio con la buccia, perché tante dei nutrienti contenuti nella frutta sono concentrati appunto nella buccia, chiaramente lavandola bene, e sicuramente sì, nella forma intera e con la buccia è sicuramente il modo migliore di mangiarla, insomma. Allora, intanto arrivano i messaggi al 349-238-6666, come sempre potete scriverci anche su Facebook e seguirci su Twitter. Tre biscottini e un caffè, mi scrive Adele. Proprio ora una pera, non è firmato, due brioche piccole alla crema, il mio spuntino 30 grammi di nocciole, 200 ml di latte con 30 grammi di proteine in polvere, questo ci scrive Roberto da Firenze, banane, sono almeno 4 gli ascoltatori che si sono mangiati una banana da stamattina, dottor Ongaro. Beh, direi che sì, si vede, si nota subito una cosa, che è chiaramente la tendenza allo spuntino dolce, no? Da questi esempi emerge sicuramente che la maggior parte delle persone cerca qualcosina di dolce. Certo, andiamo a degli estremi un pochino, sì, che sono un pochino lontani tra loro, cioè dall'utilizzatore per esempio delle proteine in polvere, che possono essere un'ottima idea per chi fa dello sport per esempio, a quello che invece riferisce il cornetto con la crema, insomma, simpatico, cioè, però abbiamo appunto detto che c'è un po' di tutto, insomma. Due piccoli e anche una brioche ma integrale. Ecco, la brioche integrale è un altro di quei fenomeni interessanti, perché avere la farina integrale, se poi la brioche è piena di zucchero, non è che sia un gran vantaggio. Al di là che può piacere di più, sul piano metabolico cambia abbastanza poco, diciamo. Ma quando è il momento della giornata in cui avete proprio voglia di smangiucchiare qualche cosa? Sandro ci chiama da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno, Sandro. Senta, brevemente, che vi ascolto sempre, so che c'è poco tempo. E il mio problema è l'opposto di quello che hanno tutti, cioè io se faccio uno spuntino più o meno leggero, che sia un yogurt o una mela, a metà mattinata o verso le 4 o le 5 di pomeriggio, poi mi trovo a cena, non ho fame e sono costretto a posticipare l'orario della cena. Cioè, allora io non fo la merenda, prendo un caffè perché vado in calo di zuccheri. Caffè con lo zucchero. Con lo zucchero lo prendo. Però non fa merenda, perché poi ripeto, mi tocca cenare alle 9, alle 9 e mezzo, perché non ho fame, vo a tavola, diventi inappetente. Perché se mangia fuori pasto si rovina il pasto, come dicevano. Sì, brava. Io arrivo, devo arrivare con la fame, perché sono 1,73 m, peso 65 kg, perciò sono in forma. Perfetta forma. Allora, l'unico neo che troverà il dottor Ongaro è che aggiunge lo zucchero nel caffè. Ma, dottor Beh, non è un caso del tutto raro, nel senso che può anche capitare alla persona che se fa lo spuntino alle 5 di pomeriggio, per esempio, poi alle 7 e mezza, 8 non ha ancora fame. In questo caso si può ovviamente anticiparlo, oppure bisogna andare a vedere anche che cosa si mangia a pranzo e cosa si mangia a colazione, perché ricordiamo sempre che il valore di uno spuntino dipende moltissimo dalla struttura alimentare dell'intera giornata, non soltanto dallo spuntino in quanto tale. Certo, se c'è questo calo di zuccheri a cui faceva riferimento l'ascoltatore, il metodo migliore per compensarlo non è sicuramente il caffè con lo zucchero che ti dà questa sferzata glicemica momentanea, ma poi tutto sommato a distanza di pochissimo ti riporta la glicemia ad un valore spesso più basso di quello che c'era in partenza. In questo caso è meglio mangiarsi un frutto, appunto, un po' di pane integrale, cioè qualche cosa che permetta di aumentare la carica energetica, ma non in maniera così repentina, così come fa invece lo zucchero puro, insomma. È sempre, come abbiamo detto tante volte, il valore di ogni singolo pasto, spuntini compresi, e addirittura il valore di ogni singolo alimento o ingrediente dipende dal contesto alimentare complessivo in cui lo inserisco, insomma. Però, dottor Ongaro, è anche vero che se finita la colazione o subito dopo pranzo o dopo cena ci viene fame, abbiamo voglia di mangiare il cioccolatino, di prendere il biscotto, mangiare un cracker, vuol dire che il nostro pasto non è tanto equilibrato. Ma sicuramente, infatti, questo è il punto principale su cui concentrarsi. Allora vuol dire due cose: o che c'è uno stimolo di tipo psicoemotivo ma non metabolico, quindi il cibo visto come ansiolitico, come antidepressivo, come spezzanoia e non solo come spezzafame, e questo è un caso, come ben sappiamo, sono casi molto comuni oggi, insomma, oggi si tende a mangiare troppo non tanto per un'esigenza metabolica quanto per un'esigenza diversa e più legata alla sfera emotiva. Oppure, se ho fame così in maniera importante, in tempi ravvicinati all'ultimo pasto, vuol dire che il pasto non è stato costruito bene. Quindi o è stato insufficiente o è stato troppo ricco di carboidrati raffinati e zuccheri e quindi mi ha dato un momentaneo beneficio, salvo poi a distanza di pochissimo tempo, un'ora e mezza, due, ridarmi di nuovo una sensazione di fame. Che nel futuro la tecnologia potrebbe svelarci quanto muoviamo la bocca e quindi in pratica dirci quante volte mangiamo, se mangiamo troppo. Ne parliamo con Gianfranco Giardina, che è in linea con noi, direttore del magazine online DD Day. Buongiorno, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Di Allora, ho letto una cosa molto carina. questo Gianfranco, sensore, sì, sì, di di questo questo sensore sensore. che si mette dentro un dente, si potrebbe mettere dentro un Beh, dente. Io non me lo farei mettere mai. Ce lo racconti, Gianfranco? sì, è assolutamente un prototipo, al momento, ma qualcuno ha pensato di poter inserire un sensore, per esempio all'interno di un dente, evidentemente non di un dente sano in questo caso, ma di un dente sostitutivo, e questo sensore di fatto potrebbe calcolare i movimenti della mandibola e quindi confrontandoli con dei pattern evidentemente di movimenti legati per esempio alla masticazione, al fumo, semplicemente al parlare come sto facendo io in questo momento, determinare quante volte viene compiuto di fatto il movimento della mandibola legato all'alimentazione. E quindi dirci se stiamo mangiando compulsivamente, eccessivamente, troppo spesso, troppo frequentemente, tutto ovviamente sul display dello smartphone. È assolutamente un prototipo. Primo perché il Possiamo stare sensore, tranquilli, insomma, sì, per il momento Gianfranco. sì, il sensore è capace, insomma, di determinare il movimento e le accelerazioni e non certo la qualità. Né volendo diciamo neanche la quantità del cibo che stiamo ingerendo e quindi non potrebbe discriminare se si tratta di zuccheri, carboidrati piuttosto che proteine, evidentemente. E questo è un primo problema. Ma il secondo problema ancora non risolto è che se se la sensoristica è diventata oramai piccolissima, le batterie e gli apparati radio che servono per far andare questi sensori ancora non lo sono, tant'è vero che questo prototipo è ancora collegato a filo allo smartphone e quindi direi... il filo che esce dalla bocca può essere utilizzato semplicemente per fare dei test, ma niente di più, ecco. Però Gianfranco, devo dire che la tecnologia sta lavorando per aiutarci a diventare sempre più consapevoli di quello che mangiamo in termini di quantità e anche di qualità. Ci sono, no, delle idee. Deuzze. Assolutamente sì, per esempio sono stati presentati alla scorso Consumer Electronics Show di Las Vegas delle posate ovviamente dotate di sensori che misurano quante volte portiamo la posata alla bocca, con che pesi, quindi con quanto cibo e con che velocità, soprattutto anche per determinare se abbiamo una masticazione buona, completa, o se mangiamo un po' in maniera ossessiva e quindi diciamo sicuramente in un modo meno sano. Ovviamente dovremmo portarci sempre dietro quelle posate, quelle posatine, e mangiare sempre con quelle posate, perché se no evidentemente il gioco non funziona. Quindi anche qui si sta facendo qualcosa. Questo è già un prodotto finito, ben inteso, è già disponibile sui mercati internazionali. Vedremo molte cose. Sappiamo che la tecnologia sul fronte della salute e della medicina è uno dei tre grandi pilastri che sta facendo fare grandi passi avanti alla scienza medica, oltre evidentemente ai farmaci e alle nuove conoscenze. Ma per esempio ho visto una sperimentazione in Giappone, anzi non una sperimentazione, proprio un progetto pratico reale in cui alcune mense aziendali si sono dotati di piatti che contengono al proprio interno un sensore che tecnicamente si chiama RFID, ma è un sensore passivo, quindi non ha bisogno di batterie, non ha bisogno di niente. Su questo sensore vengono codificati i cibi contenuti nei singoli piatti, quindi se prendo gli spaghetti avrò dentro tutti i valori degli spaghetti, se prendo altre pietanze avrò chiaramente i valori nutritivi di quelle pietanze, e quando arrivo alla rastrelliera finale dove reinserisco il mio vassoio, tipico delle mense, ogni dipendente passa il proprio badge, quindi il sistema conosce anche le caratteristiche fisiche del dipendente e conosce grazie a questi sensori cosa il dipendente ha mangiato e gli fa una sorta di bilancio del tipo di alimentazione che ha avuto, se è stato completa, adeguata alle esigenze corporee che ha, e gli fa anche un calcolo di tutti le carboidrati, proteine, grassi. Troppo. Eccetera, eccetera. Cosa ne pensi tu, Gianfranco? Io mi sentirei un po' troppo pressata. Chiederei anche al dottor Ongar e ai nostri ascoltatori. Ma prima, Gianfranco, tu come la vedi questo piatto che ti controlla tutto quello che si dice? Non guardare quello che l'altro ha nel piatto. Invece ce lo arriveremo ad avere tutto registrato. Ma io credo che sia sempre poi una scelta dell'utente, quanto controllarsi, no? Esiste anche un prototipo, per esempio, qui su un ambito non troppo distante, anche se non legato all'alimentazione, di sanitari che fanno delle analisi di base delle urine ogni volta che li si utilizza, per esempio, sempre in Giappone questo, e anche qui... Insomma, se uno va in Giappone è super fotografato, vai un attimo loro... in Giappone, fai un check-up completo, loro amano, ti siedi, fai amano... pipì, se fanno l'esame dell'urine, vai in mensa, sanno quante calorie mangi. Dottor Ongaro, lei è stato in Giappone di recente? No, non ho avuto il piacere, ma diciamo che mi ricordo abbastanza, avendo avuto il mio trascorso con le agenzie spaziali e gli astronauti, insomma, chiaramente ci siamo occupati molto di tecnologie avanzate che possono essere utili per monitorare la salute e la prestazione umana. Credo che ci siano sempre degli spunti interessanti. Poi è chiaro che la tecnologia non sostituisce la consapevolezza e non sostituisce per niente la sfera emotiva, anzi alle volte l'interazione con la sfera emotiva non è così positiva come può sembrare. Quindi dove ci può aiutare a fare delle scelte migliori credo che sia molto utile, dove diventa una fonte di stress e ansia in più non la condivido molto, ecco. Grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, ricordo direttore del magazine online dday.it. Grazie Gianfranco, ti aspettiamo Grazie presto. mille. Buona Grazie, alla prossima. giornata. Giuseppe dalla provincia di Bari, intanto la saluto, ma volevo leggere alcuni messaggi. Ad esempio, due ascoltatori sono in viaggio, sono due fidanzati e si sono mangiati un po' di scamorza intanto che vanno verso il mare. Ascoltatori mi scrivono se è corretto l'abbinamento della banana con la noce per abbassare l'indice glicemico, dottor Ongaro. Può essere sicuramente, sì, così come di un altro frutto, non necessariamente la banana. La banana è molto enfatizzata per la comodità chiaramente di trasporto e di assunzione, ma insomma l'abbinamento frutta con frutta in guscio, noci, mandorle, eccetera, può essere buono, sì. Ma che cosa fate voi quando vedete che avete tanta voglia di spiluccare, spuntinare, come mi scrive un ascoltatore, sgranocchiare e volete fermarvi, dire no, adesso basta, è tutto il giorno, che faccio andare la bocca. 800 24 00 24, intanto abbiamo Giuseppe che ci chiama da Bari, dalla provincia di Bari, vero? Sì, provincia Bat, Barletta. Ah, provincia Barletta, ecco, Sì. vabbè, insomma abbiamo sbagliato, ma Giuseppe, No, no, no, no, no, benvenuto. anzi, non, no, io volevo sapere dall'esperto, io la mattina per colazione, verso le 6:30, le 7, mia moglie mi prepara il pane un po' raffermo, un po' duretto, bagnato un po' sotto l'acqua e poi condito con olio, un pizzico di sale, pomodoro, origano Buono. e mangio 4-5 pezzi di Sì. questo pane ed è molto digeribile, quindi fino all'una, alle 13, cioè, sono così sazio che non faccio nessun spuntino. Dopodiché, dopo aver mangiato questi 4-5 pezzi di pane, prendo un buon caffè E via, e le ed è a posso posto dire fino che... all'una. E volevo sapere dall'esperto, penso che sia nutriente come prima colazione, perché almeno qua al sud possiamo mangiare questo Certo. tipo di pietanze, Dottor così lo puoi Ongaro, tra chiamare. l'altro gli uomini che fanno colazione proteggono il loro cuore, una ricerca uscita proprio nei giorni scorsi, e quindi Giuseppe protegge il cuore e non spilucca. Sì, e direi anche che è un'ottima colazione, insomma, più tipica delle zone del sud, il pane poi un po' indurito, no? In questo modo ha anche un impatto sulla glicemia minore, se fosse integrale sarebbe ancora meglio, però direi che c'è l'olio, c'è il pomodoro, insomma, non è male, è un buon modo di iniziare la giornata. Molto estivo, Molto estivo, come sì. colazione, l'adottiamo. E allora, dottor Ongaro, prima dei mercati, possiamo fare il nostro quizzettone? Il nostro quizzettone, allora, sì, è un quizzettone interessante perché c'è un momento della giornata Sì. in cui uno snack dolce, e guarda che se lo dico Guarda che io, se lo dice dottor ecco, Ongaro è proprio tenetevi. può perfino essere utile. E la domanda è: qual è questo momento della giornata a colazione, prima dell'attività fisica o subito dopo l'attività fisica? Allora, ripetiamo, in quale momento uno spuntino dolce? Ecco, il dottor Ongaro ha proprio pronunciato questa parola, dolce, può essere utile colazione, prima dello sport, dopo lo sport. Essere e benessere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente Si beve per sete, per idratarci, ma anche per ingannare un po' il tempo, per capire se quello stimolino, quel buchino è vera fame o invece è solo sete. Dottor Ongaro, si beve anche però tante volte per dissetarsi e per tirarsi su, e in questo caso allora tendiamo a preferire le bevande zuccherate. Le mandiamo giù e ci troviamo subito su. Sì, diciamo che c'è una bella differenza tra il bere per idratarsi e quindi preferire acqua, soprattutto, e invece il bere bevande zuccherine. Ricordiamo che negli Stati Uniti, insomma, è stato messo in relazione il consumo di molte bevande ricche di zuccheri, è stato messo in relazione molto stretta con l'obesità, il sovrappeso, la sindrome metabolica, l'incidenza di diabete. Quindi un conto è la bevanda naturale o una centrifuga, l'acqua, anche un succo di frutta al 100% frutta, stare invece un pochino più attenti a tutte quelle bevande in cui vengono aggiunti degli zuccheri, anche gli stessi succhi di frutta che spesso hanno meno frutta, un po' d'acqua e dello zucchero aggiunto, così diciamo si abbattono i costi, ma la qualità poi della bevanda è sicuramente diversa rispetto a un succo al 100% naturale. Insomma. Quindi occhio a quello che portiamo alla bocca e mettiamo anche nel bicchiere. Sì, assolutamente, poi ci sono le bibite gasate, il tè freddo, insomma è un modo molto facile per aumentare l'introito di calorie e di zuccheri, e devo anche dire che pur non volendo diciamo demonizzare o suggerire una loro scomparsa, però attenzione, perché anche come spezzafame sono meno efficaci del cibo solido, ovviamente. Per cui se io apporto zuccheri e calorie ma non c'è il cibo solido, rischio di avere fame di nuovo poco dopo e di dover mangiare di nuovo qualcos'altro o bere di nuovo qualcos'altro. Quindi utilizziamole con un pochino di attenzione e scegliamo le versioni che siano il più possibile naturali. Però noi possiamo anche bere, dissetarci e anche riequilibrare le perdite con bevande buone, salutari, che ci fanno bene, che piacciono anche al dottor Ongaro, e sono sicuro che gli piaceranno molto, perché a suggerircele è il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta. Cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, l'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore con Claudio Rinaldi di Super Salute. Ho detto tutto, dottor Gualerzi, mi merito una bevanda straordinaria. Sì, in realtà, come diceva il dottor Ongaro, ciò che facciamo fuori pasto e ciò che beviamo è molto importante, perché se sbagliamo può anche, diciamo, delle bevande scorrette andare a vanificare un'alimentazione corretta, quindi anche tanti piccoli errori possono andare a vanificare appunto un'alimentazione buona. Possiamo imparare, come dicevamo, appunto a bere cose sane, ad esempio una di queste è imparare a bere le verdure. Le verdure si possono bere da sole o insieme anche alla frutta attraverso le centrifughe, e questo è il periodo ideale, perché oltre a essere bevande dissetanti forniscono gli elementi giusti per idratarci, per integrarci, in più aiutano a farci raggiungere quelle mitiche 5 portate, no? Sì. Al giorno che dovremmo assumere di frutta e verdura, cosa che se invece le assumiamo solo i pasti principali non arriviamo mai. Invece mangiandole, ad esempio, tutte in un bicchiere, via. Ecco, in un bicchiere possiamo fare sia metà mattina, metà pomeriggio, una bella centrifuga. In questo periodo una consigliata che aiuta sia ad esporsi meglio al sole, sia diciamo a riequilibrare le perdite, sia anche diciamo un antiossidante, è una centrifuga fatta con i cetrioli, ad esempio il cocomero e la carota, un ottimo sapore, e appunto apporta cetriolo, è un attimo che non capisco, cocomero che per lei è l'anguria, certo, ok, no, e poi carota, okay. E carota, ecco, queste io il cetriolo crudo non lo digerisco tanto, come mai? Perché in realtà contiene delle sostanze che sono abbastanza difficili da digerire, però diciamo nella centrifuga diciamo sono molto più digeribili, e quindi apportano più che altro solo quei sali minerali tipici del cetriolo, ma non tutte quelle scorie che sono poi più difficili da digerire, quindi messe all'interno di una centrifuga diciamo che vanno molto meglio e sono molto più digeribili. Guardi che lei ha un ascoltatore che le sta rubando le idee, perché anzi ne propone altre, perché in ogni momento ci scrive spremuta di spinaci e asparagi. Ecco, abbiamo discusso a lungo col dottor Gualerzi prima di sentirci sull'asparago, perché poi ho detto, poi ci sono gli ascoltatori che se lei mi dice asparagi mi dicono non sono più di stagione. Il dottor Gualerzi, detto che fino a giugno vanno bene, visto ma che siamo alla fine di luglio, quindi rimandiamo. Aprile, maggio, giugno vanno bene, luglio cominciano a essere fuori stagione, cerchiamo di preferire appunto quelle verdure che sono più stagionali, giusto per anche... Ecco, anche per non farci sgridare dagli ascoltatori, ecco, per cui... Ma è giusto, giustamente. Spremuta di spinaci, asparagi, ci dice l'ascoltatore, più un frutto, mi dice un cacco, quindi siamo proprio fuorissima stagione, perché il cacco non c'è ancora. Infatti, comunque infatti. L'idea di fare i centrifugati ci piace, ma dottor Gualerzi, noi oggi stiamo parlando soprattutto di sgranocchiamento, e lei che è un grande esperto, ci ha insegnato a usare i semi, le bacche, ecco, le straordinarie virtù, ci ha fatto conoscere, no? I semi di goji, che di cui ne abbiamo parlato proprio l'altro ieri con un ascoltatore, che da quando li prende riesce anche a esporsi al sole siciliano senza scottarsi. Quali semi ci può suggerire per uno sgranocchiamento buono, senza sensi di colpa, anzi che ci fa bene? Allora, possiamo dire innanzitutto come semi possiamo prendere in maniera abbastanza indiscriminata sia quelli di girasole che di zucca. Possono essere mangiati entrambi, sia diciamo saltati in padella e salati, in questo caso diventano dei veri e propri snack, o da mangiare da soli, quindi da sgranocchiare, oppure da mettere all'interno di muesli di cereali abbinati anche magari a frutta secca come mandorle. Oppure presi crudi, quindi non saltati in padella e non salati, ad esempio possono andare a arricchire appunto centrifugati, una macedonia, oppure possono anche andare a arricchire ad esempio uno yogurt magro, che possono essere sempre qualcosa da mangiare o da sgranocchiare, in questo caso da diciamo assaporare nella nostra come spezzafame nell'arco della giornata. Come bacche invece oggi tirerei fuori le bacche di acai, perché stanno avendo un notevole successo, possono essere mangiate crude, ricordano un po' i mirtilli come consistenza, sono i frutti della palma acai originaria del Sud America, ma che sono diventati molto popolari soprattutto negli Stati Uniti, adesso anche qua in Europa, perché sono stati commercializzati come un miracoloso rimedio all'obesità, essendo dei potentissimi antiossidanti e quindi favorendo i processi energetici. Quindi obiettivamente li possiamo mangiare anche questi crudi come frutto, quindi da sgranocchiare come appunto dei mirtilli, oppure possono essere preparati sempre in centrifugo. Addirittura oggi esistono anche molti negozi, molte gelaterie che fanno proprio il gelato anche al gusto acai, ed è un ottimo modo diciamo per anche qui fare uno spuntino gustoso a metà pomeriggio. Ma quante posso sgranocchiarne in una giornata? Una manciatina, perché un attimo diciamo per esagerare, che, sai, infatti, che noi quando pensiamo fa bene, se ne mangio tanto fa ancora meglio, no? Poi invece diciamo magari poi mi viene la dissenteria, che ne so. No, fino a 7-8 bacche possono essere mangiate anche crude, come appunto mangiamo 7-8-10 mirtilli, ecco, questo è nella stessa misura. Sicuramente abbiamo trovato anche radioascoltatori che mangiavano l'altra volta una cinquantina di bacche di goji e poi sono stati male, ecco, in questo caso direi di no, prima di stare male. Ecco, una dozzina, dai, facciamone sì. Una, ecco, per chi invece, come mi scrive un ascoltatore, non vuole sentire parlare né di semi, né di semini, di bacchette, di centrifugati, ma vuole farsi il suo spuntino, lei ha qualche suggerimento? Sì, ecco, uno dice io italiano, ecco. Con il pane, con il cracker. Allora, logicamente cerchiamo di limitare questi tipi di spuntini più tradizionali, perché poi apportano calorie e possono anche appesantire, però se proprio non possiamo rinunciare al fatto di sgranocchiare qualcosa tipo il pane o i cracker, meglio che vengano da farine integrali, quindi a più basso indice glicemico. Però se vogliamo adottare qualche trucchetto e conservare il nostro gusto di mangiarci il pane, se associamo al pane ad esempio un po' di aceto balsamico o delle mandorle, sappiamo che questi due elementi sono in grado di abbassare l'indice glicemico del pane e quindi di evitare che il pane abbia un impatto molto importante sul nostro metabolismo, rallentando la secrezione di insulina e quindi la produzione anche di tessuto adiposo. Quindi lo sdoganiamo in associazione con l'aceto balsamico e le mandorle, perché sono due elementi che sono stati dimostrati in grado di abbassare l'indice glicemico dei carboidrati stessi. Grazie dottor Gualerzi, che ci dà anche la soluzione. Quando vogliamo, ad esempio un ascoltatore non si firma ma mi scrive: ma un panino col salame? No, Antonio mi aveva scritto che schifo le centrifughe, meglio il risciacquo. Ecco la soluzione. Grazie dottor Gualerzi, buona giornata. Noi grazie, ci sentiamo presto. Essere e benessere. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Beh, è lo spuntino dell'estate, non si sgranocchia, si lecca, si può utilizzare come merenda, come fine pasto, ma anche come sostitutivo del pasto, dottor Ongaro. Il gelato al limone. Anche non al limone, al cioccolaton. Ma sì, è chiaro, non è che all'extra-noir, sia, ecco, non è che sia la soluzione perfetta. Il gelato è un alimento comunque ricco di zuccheri e spesso ricco di grassi. Però se lo vogliamo fare, perlomeno stiamo attenti che il resto della giornata ci fornisca i nutrienti necessari, quindi comunque fare la colazione in maniera corretta e l'altro pasto dedicarlo ovviamente a verdure, un po' di proteine di buona qualità, i cereali integrali, cioè il pasto sostitutivo col gelato ti fornisce una quantità di nutrienti limitato e molto concentrato in una direzione, che sono zuccheri e grassi. Quindi ma lei suggerisce, ma tanto che lo facciamo, artigianale o industriale? E se prendo quello con la soia? perché beh, la risposta naturale per me è che preferisco un gelato artigianale con degli ingredienti ben selezionati. Il gelato alla soia può avere, diciamo, una concentrazione di proteine leggermente più alto, e per chi dovesse avere problematiche legate al lattosio o alle proteine del latte potrebbe essere una soluzione, sì. Adesso le leggo un po' di post che sono arrivati su Facebook, le do qualche idea, dottor Ongaro, di spuntini, sì. Che così si... Spuntino ideale, panino con pancetta casalinga e una bibita fresca. Certo, anche due birre e un sigaro, poi, nel senso che, certo, buono, però non è la risposta che uno che si occupa di nutrizione può dire perfetto. Prossimo. Allora, Mary. Sì? Mary mi ha scritto, prima di andare a dormire mangerei qualsiasi cosa. E qua, ecco, noi abbiamo detto, attenzione, c'è un momento della giornata in cui vi sentite più affamati e non riuscite a trattenervi. È un momento molto particolare, prima di andare a dormire. In questo caso, dottor Ongaro, lei come la legge? Ha mangiato poco a cena? È una botta di ansia? È una fame nervosa? Ci sono delle indicazioni? Buona domanda. È un problema che hanno in molti, chiaramente, cioè quello di arrivare a quelle 2-3 ore successive alla cena. Si finisce col contribuire fortemente all'aumentare le calorie, eccetera. Spesso è una questione, sì, secondo me, di nervoso, o a volte è una cena che è stata insufficiente, quindi, o anche una post cena che si protrae troppo a lungo, cioè voglio dire, se io mangio alle 7:30, 8, poi vado a letto all'1, beh, sono passate già talmente tante ore che è evidente che mi torna anche fame. Quindi io la soluzione, visto che mangiare tardi alla sera non fa bene per tanti motivi, la soluzione è migliorare un pochino la cena. Anche caso. Perché si dice sempre, ma in parte è vero, che tutto quello che mangiamo alla sera finisce, no? Nelle cosce, diciamo noi donne, è vero? Sicuramente, dottor? Sicuramente di più, certo. Invece Federico, penso che le piacerà, mele e carote in ufficio? Beh, ottimo, questo è diciamo un po' l'antitesi del panino. Del panino, con la magari sono colleghi, uno tira fuori. Sono colleghi, ecco, eventualmente possono fare metà e metà, così si aiuta la vicenda. Diciamo, questo è uno spuntino buono, pieno, ecco, di vitamine. Attenzione però alla carota, fibra. Dottor Ongaro, perché un ascoltatore mi ha scritto, attenzione, le carote sono molto caloriche. No, le carote non sono assolutamente caloriche, sulle carote c'è questa vecchia leggenda che hanno l'indice glicemico alto, ma quello che conta di più è il carico glicemico, non l'indice, quindi di fatto la carota non rappresenta sicuramente un problema. Preoccupiamoci di altri problemi, non delle carote. Volete perché... sapere la differenza tra indice e carico glicemico? Potete andare naturalmente sulla nostra pagina dove trovate un post con la differenza. Rossano dalla provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, abbastanza bene. Bene, che sta mangiando? Stamattina purtroppo ho dovuto saltare lo spuntino perché sono stato in giro per clienti, però di solito io mi alzo mattino alle 6:30, faccio colazione con frutta, d'inverno 2-3 arance, un bicchiere di tè. Pensavo un bicchiere di vino, perché no, sta... un bicchierone di tè con un po' di grissani, quei grissini abbastanza grossi, 4-5. Sì. Dopo però, d'estate... frutta del tipo pesche, melone, anguria, quello che c'è. No, insomma. Anguria no, no. Alla mattina anguria no, ma mezzo melone con un paio di pesche sì. Dopodiché verso le 10:30, anzi, mangio del pane al camut. Sì. Ne mangio 10-15-20 anche perché mi piace. Guarda come poi... se la ride Rossano, ha sentito dottor Ongaro? Però non fino ho adesso 10-15 panini, ma no, sono dei grissinotti un po' cicci. Sì, esatto. Da presenti, che sembrano un po' delle dita tozze, ecco, sì. Vero Rossano? Esatto, perché esatto, sono quelli esatto. Che mangio anch'io, buonissimi. E poi? Esatto. E dove arriviamo? Arriviamo all'1. All'1 faccio un pranzo non esagerato, mezza porzione di pasta, sì. un po' di pane. Pasta e pane, oh, mamma mia, dottore Ongaro. Poi, Rossano, andiamo alla sera. La sera cosa fa? Pomeriggio verso le 5 un frutto, verso le 7 un altro frutto e poi alle 8:30 gran terrina di verdura. Gran terrina? Sì, roba da cinema. E tipo poi? Per esempio 3-4 cetrioli, un sedano. Senta, ma Rossano, ma lei non riusciamo a sfamarla, dottor Ongaro, ma quanto mangia Rossano? Penso alla moglie di Rossano, per fare la spesa va proprio con i carretti. Tanto per dire, io sono 1,88 per 81 kg. Quindi lungilineo e magro, no. Direi l'unica annotazione è, siccome c'è un introito piuttosto elevato di carboidrati, a costo di ripetermi, attenzione che le versioni integrali sono molto diverse dalle versioni raffinate. Privilegiamo l'integrale. Vado a correre, però. Però Rossano va a correre, insomma, dai, Rossano è quasi perfetto, no? Dai, dottor Ongaro. Il fatto che vada a correre non ha molto a che vedere con i carboidrati integrali o raffinati, nel senso che va benissimo anche l'integrale anche per chi va a correre, anzi tanto meglio, perché ha una glicemia più stabile e duratura nel tempo. Allora, salutiamo Rossano, e per avere dei suggerimenti, delle idee sfiziose, buone, salutari, nuove su spuntini e dintorni, non potevo non avere la voglia di invitare il mio grande amico Marco Bianchi. Ciao Marco. Oh, ciao Nicoletta. Ciao, divulgatore scientifico per Smart Food. Dottor Ongaro. Ciao Marco, buongiorno, piacere di risentirti. Allora, Marco, qualche spuntino, siamo in estate, guardiamo la linea, però non abbiamo, magari ci muoviamo spesso, c'è chi è sotto l'ombrellone, due ideuzze. Guarda, infatti, qualche ideuzza, guarda, sicuramente portiamo un bel po' di colore sotto l'ombrellone anche, quindi un bel pincimonio sia a base di frutta che di verdura accompagnato da qualche salsina un po' sfiziosa. E ti dico, ad esempio, una salsina a base di yogurt greco, magari appunto scelto magro, visto che ce l'abbiamo a disposizione, con un cucchiaino tipo di wasabi, in modo tale che dia anche un po' di una punta pungente, insomma, all'interno di questa salsa, e dove andiamo appunto a condire la nostra verdura, sgranocchiare la nostra verdura che abbiamo precedentemente tagliato e semplicemente messo in acqua. Quindi, però questa cremina la rende molto, le dà più appeal, diciamo la verità. Molto, e ti aiuta a sgranocchiare, a riempirti, a saziarti, ma non a appesantirti. Quindi yogurt greco magro e wasabi che ti dà questa, si compra nei negozi di prodotti, dappertutto, supermercati, eccetera. Dappertutto, nella zona etnica la troviamo il wasabi, quindi in alternativa? Nicoletta, anche una buona salsina a base di cannellini lessati, anche quelli in scatola, purché le risciacquiamo un attimo, facciamo una specie di purea con cannellini e pomodori secchi tritati dentro. Questa la faccio stasera, cannellini. Brava. E non metti neanche un filino di olio? L'olio lo metti solamente a crudo dopo, se la devi servire in tavola, se è da portare in giro puoi anche evitarlo, non aggiungere sale perché ovviamente abbiamo già un'ottima fonte, insomma, di sodio all'interno, quindi basta così, vedrai che ti e va bene per le verdure. Questa la faccio stasera, poi ti faccio sapere. E poi mi fai sapere, certo. In alternativa mi viene in mente che, se siamo invece anche in casa, come spezza fame, potremmo anche tornare indietro agli anni 80, quindi riprendere un po' la moda del popcorn, perché se ben preparato in casa, in una bella padellina antiaderente, senza condimento, senza aggiunta di sale, insomma, comunque nella giusta quantità, perché poi andiamo sempre ad eccedere, potrebbe essere un ottimo modo per bloccare un po' quello che... Dai, lì sì che è un bello sgranocchiamento. Quello è, cavolo, lì fantastico. Sgranocchiamo alla grande, sì. Grazie Marco, farò la salsina con i cannellini e i pomodori secchi. Ti abbraccio. A voi, buona estate. Nicoletta. Grazie, dottor Ongaro. Abbiamo Edi che ci chiama da Belluno, buongiorno. Edi. Ciao Nicoletta, buongiorno. Buongiorno, abbiamo anche a me, ma Gianmarco Ferronato, che regia la parte tecnica, mi sta facendo chiudere. Edi, mi dica la risposta del nostro quizzettone. Dopo lo sport. Brava, e riceve a casa, brava, riceve a casa Mangiare ci fa belli del dottor Ongaro, grazie a Edi che ha indovinato, al dottor Ongaro. Oh ragazzi, io vado in vacanza, ma voi continuate a seguirmi, noi ci sentiamo poi a settembre, buone vacanze a tutti. Essere e benessere.